Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius. In viaggio nel mondo senza fine della scienza con Federico Pedrocchi. C'è un po' di mare in questa puntata, Chiara. Sì, c'è un po' di mare in ognuno di noi. No, è la voglia d'estate, abbiamo fatto una puntata estiva, così, buttata lì. Adesso siamo per parlare di costumini, ti vedo raggiante. Sì. I titoli e poi incominciamo. Benvenuti a Mebius. Se funziona, potremmo dire bingo! Fabbricare tessuti riciclando reti da pesca. Un'azienda italiana porta nel mercato questa singolare soluzione. I pianeti del Sistema Solare girano su se stessi tutti nello stesso verso, tranne Venere e Urano. Come mai? Finalmente i libri di testo per le scuole sbarcano sui tablet. Sono multimediali e interattivi, con la possibilità di prendere appunti, guardare video e inviare direttamente i compiti ai prof. Prima le donne e i bambini, questo è l'ordine di evacuazione in caso di naufragio, ma non sembra sia andata sempre così. Siamo immersi nel tempo, lo usiamo costantemente, ma non sappiamo cosa sia. E qualcuno dice che nemmeno esiste. Eccoci qua. Allora, però, seriamente, non parliamo di costumini così, tanto per parlare. Parliamo di tessuti, via. Di tessuti. E per farlo abbiamo con noi Paolo Colombo. Buonasera, Colombo. Buonasera a voi. Lei è un tecnico del centro di ricerca di una importante azienda che fa tessuti, è la Carvico, no? Esatto, che si trova a Carvico, che è vicino a Bergamo. Paesino vicino a Bergamo. E esatto. Siete fornitori di tessuti per, insomma, di livello mondiale, insomma, è un grande marchio italiano. E prima dicevamo costumini, perché in realtà ci occupiamo proprio oggi di tessuti, quelli elastici, diciamo, quelli che servono appunto per fare gli intimi e per fare i costumi da donna e da uomo e da piscina. Perché ne parliamo però? Ne parliamo perché hanno messo a punto un'intera procedura tecnologica, no, Colombo, per riuscire, questo è il fatto abbastanza singolare, a estrarre filato da... recuperando qualcosa che dal punto di vista dell'inquinamento ambientale, dei problemi ambientali, è tra i problemi più grossi, insomma. E che proprio soffice non è, mi viene da dire. Esatto. Cos'è Colombo? Sono le reti da pesca. Le reti da pesca, quelle che, esatto, che trascinano i pescherecci, quelle lì. Esatto, esattamente, le reti da pesca che vengono usate nella pesca d'altura, nella pesca in mare. Ma com'è possibile tirare fuori un bikini da una rete da pesca, scusi? Ma è possibile perché la nostra azienda, insieme ad un importante fornitore di materia prima, ha deciso di utilizzare della poliamide, che è il classico nylon, chiamiamolo, della poliamide rigenerata, che è fatta utilizzando anche queste reti da pesca. Quindi si raccolgono le reti da pesca in giro per il mondo, è stato costruito un network di aziende che è in grado di raccogliere queste reti da pesca, che vengono così assurte a nuova vita, vengono pulite, vengono recuperate, vengono reimmesse nel ciclo produttivo del filato di nylon. Dobbiamo ricordare che queste reti poi spesso finiscono, per esempio, in bocca alle balene, cetacei, e sono soggette, sì, creano strangolamenti. O creano anche sulle zampe delle tartarughe, le caretta caretta. Insomma, è un problema grosso di inquinamento, e in questo caso appunto si riutilizzano. Però la cosa, diciamo, il trucco è l'elasticità di questi tessuti, perché lo sappiamo, insomma, la licra, i tessuti per i costumi sono molto elastici, molto morbidi. E com'è possibile tirarli fuori? Il trucco sta nel filato. Allora, il trucco sta nel come vengono tessuti e come vengono prodotti. Quindi oltretutto noi utilizziamo una bava cava, che è come utilizzare un tubo vuoto. Questo ci permette di... Bava cava, lei intende un filo? Un filo. Un filato vuoto, come utilizzare un tubo di gomma per l'acqua, ecco. Tubolare. Ecco, esatto, tubolare. Normalmente i fili sono a sezione piena, questo invece è una sezione vuota, cava. Questo ci permette di produrre tessuti con leggerezze, con un elevato grado di leggerezza rispetto allo standard, utilizzando al contempo anche meno materia prima. Certo. Beh, senta, mi viene questa domanda in generale. generale, perché credo che tutti noi pensiamo che il filo sia una cosa molto sottile ma piena. Fare un filo con un buco dentro è un'impresa quasi nanotecnologica. Beh, non è un'impresa, gli si avvicina molto. Ci si avvicina, no? Gli si avvicina molto, sì, perché lei deve considerare che normalmente un filato che viene utilizzato per questo tipo di tessuti pesa 40 grammi ogni 10.000 metri, quindi se lei avesse 10 km di filo avrebbe in mano al massimo 40 grammi di tessuto, quindi lei immagini di fare un buco in un filo così piccolo, no? Leggerissimo. E questo dà la leggerezza. E il risultato, dà la leggerezza. Il risultato che viene fuori, il tessuto che voi producete, è del tutto simile a quello che si utilizza, insomma, col materiale materia prima normale. In questo caso, riutilizzando le reti da pesca, il risultato è analogo, cioè non si nota la differenza. Il livello è comunque molto alto del tessuto che viene fuori. Assolutamente sì, il livello qualitativo è identico, anzi le dirò, è forse ancora di più, appunto perché avendo aggiunto all'utilizzo del filo riciclato anche il filo, chiamiamolo vuoto, il filo cavo, ci permette di ottenere dei tessuti ancora più leggeri e con altre caratteristiche di assorbimento, di protezione dei raggi UV, di traspirabilità, eccetera. Quindi sì, assolutamente. Senta Paolo Colombo, un'ultima domanda. Quando si fanno delle attività aziendali che hanno un notevole, insomma, riflesso sul piano ambientale, ed è molto importante, dobbiamo augurarci che si moltiplichino sempre di più, però bisogna stare attenti ai costi, nel senso che le soluzioni che sono sostenibili dal punto di vista ambientale poi bisogna che non costino cifre spaventose, perché se no non si riescono a mettere in moto. Questa procedura qui crea dei tessuti d'alto livello ma che però, insomma, costano molto, oppure l'ordine di grandezza è buono, è praticabile? E assolutamente, sono sicuramente dei tessuti che costano leggermente di più di un tessuto standard, ma sono una soluzione economica assolutamente affrontabile, quindi assolutamente percorribile. Nel prodotto finito, diciamo, sempre nel mio bikini, il prezzo non andrà a incidere molto, più o meno è un prezzo come quello tradizionale. Beh, non inciderà tantissimo, certo. Certo. Non vedo l'ora di indossarli. Sì. Grazie Colombo, buon lavoro. Buon lavoro, arrivederci. Grazie a voi. Buona giornata. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Eccoci qua, siamo arrivati al nostro quiz, pronti? Per il suo 75esimo compleanno, Albert Einstein ricevette in regalo un pappagallo. Cosa fece Einstein al pappagallo? 1. Lo lasciò libero per casa e già alla sera del giorno stesso del compleanno il gatto di Albert se lo mangiò. Ci scriverete gatto. Seconda possibilità. Cercò di insegnargli barzellette spinte. Ci scriverete barzellette. Terza possibilità. In realtà Einstein odiava i pappagalli e il giorno dopo lo regalò a un custode dell'Università di Princeton, la cui famiglia tenne il pappagallo fino al 1998, quando morì. Ci scriverete custode o ci scrivete sempre con il solito SMS 349-238-6666. Il libro che si vince è Così parlano le stelle, il cosmo spiegato ai ragazzi, scritto da Margherita Hack e edito da Sperling e Kupfer. Questo libro è offerto da Librerie Rizzoli. Le domande che ci mandate a mebius@radio24.it oppure Facebook. Tocca a me questa volta. Facebook, ci trovate su Moebius Scienza. E allora io dico che ci trovate anche su Twitter, Moebius_online. Underscore che vuol dire? Trattino basso. Ecco, la domanda che ci arriva questa settimana è di carattere astronomico e ci arriva dal nostro ascoltatore Roberto, che ci ha svelato di ascoltarci mentre nuota in podcast con gli MP3 acquatici. Ecco, allora direi di dare la parola a Roberto. Sono un appassionato di astronomia e tra i fenomeni del cielo uno in particolare ha attirato la mia attenzione, e cioè degli 8 pianeti del sistema solare, 2 praticamente, il secondo e il penultimo, che sarebbero Venere e Urano, hanno un sistema di rotazione inverso rispetto al sistema di rotazione su se stesso che hanno gli altri 6 pianeti. volevo sapere se questo fenomeno è un fenomeno casuale o c'è una spiegazione. Dopo Roberto tornerà perché ha un'altra domanda, ma intanto direi di rispondere a questa. E dove andiamo per rispondere? Per rispondere andiamo a Torino, anzi torniamo all'Osservatorio Astronomico di Torino, dove c'è Walter Ferreri. Buonasera. Buonasera. Buonasera Ferreri. Ecco, allora, intanto l'ascoltatore è stato estremamente preciso, ha parlato di 8 pianeti perché Plutone è stato declassato. Certo, molto aggiornato, sì. E poi invece entriamo nel dettaglio del movimento, quindi la rivoluzione, cioè il moto attorno al Sole è per tutti nello stesso verso. Invece il moto di rotazione su se stessi com'è? Sì, in effetti c'è questa grande eccezione del pianeta Venere, che tra l'altro si è capito poi soltanto da un poco più di mezzo secolo. Prima anche le celebri osservazioni di Schiaparelli pensavano a una rivoluzione sincrona come la Luna intorno alla Terra. In realtà appunto Venere impiega 243 giorni a fare una rotazione intorno al suo asse, quindi è certamente il pianeta più lento del sistema solare a ruotare intorno al suo asse, e questo viene, cosa appunto molto strana, nel senso opposto a quello di tutti gli altri pianeti, a parte Urano che ha diciamo un'inclinazione assiale molto forte, alcuni preferiscono ammettere, quindi una rotazione diretta indicando un'inclinazione prossima ai 90 gradi. È come una palla da bowling. Praticamente rotola. Nel caso di Venere è effettivamente dove c'è il caso più netto di rotazione retrograda, una rotazione che noi spieghiamo con degli impatti che sarebbero avvenuti all'inizio della formazione del pianeta, lo stesso motivo per il quale si sarebbe formata la Luna. E un qualcosa del genere potrebbe essere avvenuto all'origine della formazione di Venere, imprimendogli appunto il senso opposto rispetto a quello classico di tutti gli altri pianeti. Però qui non vi sono praticamente certezze, almeno attualmente abbiamo ipotesi molto accreditate anche per l'affollamento di corpi minori rispetto al Sole nel sistema solare all'origine, che poi man mano si sono diradati impattando gli uni con gli altri, hanno formato corpi maggiori o alcuni sono stati proiettati all'esterno del sistema solare, e quindi questo nella parte interna è diventato molto più raro di questi oggetti potenziali proiettili. Ecco, ma mi viene da fare l'altra domanda, cioè sì, perché invece gli altri girano tutti dalla stessa parte? E tutti in senso antiorario, giusto? Certo, sicuramente perché i vortici, la nebulosa primordiale dalla quale si è avuta la formazione del Sole e dei pianeti, aveva dei vortici in questo senso di rotazione. Infatti quello di Venere è anomalo, in quanto vi sarebbe stato un urto con un oggetto molto grande, paragonabile a Venere, che avrebbe invece cambiato questo senso, anzi avrebbe quasi fermato, visto la lentezza del suo moto di rotazione. È un po' lo stesso fenomeno che potrebbe essere successo a Febe, che è una luna di, Saturno. Sì, Febe ha questa particolarità, cioè ruota attorno a Saturno in un senso opposto, in questo caso è la, diciamo, rivoluzione attorno a Saturno nella direzione opposta rispetto alle altre lune, ed è una particolarità, insomma. Ma dunque nel caso di Febe occorre dire che si tratta evidentemente di un oggetto catturato. Infatti a grandi distanze dal Sole abbiamo una grande quantità di oggetti tipo asteroidi, e la natura di Febe è sicuramente quella asteroidale. Si tratta di un oggetto catturato da Saturno, e in questo caso abbiamo anche altri esempi di oggetti che hanno un'orbita retrograda. Non è l'unico satellite ad avere questa caratteristica insolita, se vogliamo, abbastanza rara. Abbiamo anche un caso molto particolare di un satellite di Marte che addirittura sorge ad ovest e tramonta ad est, ad esempio, cioè Phobos. Direi che non è un caso particolarmente insolito, è un oggetto catturato, ecco. Insomma, il sistema solare è molto più affollato di quello che uno potrebbe pensare, e anche la Terra ogni tanto cattura alcuni di questi oggetti. Sì, infatti quando noi diciamo che la Luna è l'unico satellite naturale della Terra non siamo del tutto precisi. Per esso dobbiamo dire che la Luna è l'unico grande satellite naturale della Terra. Infatti, diciamo, a mezzo servizio, per così dire, vi sono altri oggetti che diventano satelliti della Terra, alcuni asteroidi molto piccoli, nell'ordine di decine di metri di diametro, quindi effettivamente oggetti assolutamente piccolissimi su scala planetaria, che vengono catturati dalla Terra e rimangono vincolati al nostro pianeta magari per decine di anni, dopodiché il Sole se li riprende, per così dire, e questo gioco continua con delle orbite molto insolite e molto strane. Ma questi satelliti piccoli angoli della Terra che però hanno qualche decina di metri di diametro non si riescono a vedere da Terra perché illuminati dal Sole, come sì, però sì, si riescono? Sono stati scoperti da Terra, sì sì, con i nostri attuali strumenti riusciamo effettivamente a vedere oggetti molto deboli. Per dare un'idea della potenza degli strumenti a disposizione che abbiamo oggi, posso dire che potrebbero addirittura vedere la luce di una candela sulla Luna, sì, certo. Idea, ecco. Quindi questi si possono osservare, non ad occhio nudo però. No, assolutamente, sono molto al di là delle possibilità dell'occhio umano. Okay. Quindi ci sta dicendo che noi abbiamo più lune, però insomma ne vediamo solo una. Delle mini lune, esatto, perfetto. Che in realtà sono in orbite in genere più distanti rispetto alla nostra Luna. Sì, insomma, hanno orbite variabili, sì. Non sono stabili certamente come quella della nostra Luna. Sì. Orbite fortemente ellittiche, molto irregolari, che poi addirittura si aprono e noi lo perdiamo come satellite, e sono variabili, cioè praticamente un'orbita non è uguale all'altra, ecco, perché i moti combinati e molto complessi della Terra e della Luna impediscono assolutamente di avere un'orbita stabile a questi oggetti. Non diciamo niente agli astrologi, perché sennò con tutte ste lune si scatenano. No, per carità, confondiamoci la vita. Grazie Ferreri. Grazie Ferreri. Grazie. Grazie a voi. Ma non finisce qui, perché il nostro ascoltatore Roberto ha un altro quesito. Un'altra curiosità è invece capire un po' meglio la possibilità di forme di vita su Titano. E certo, se questa risposta potesse darmela Margherita Hack, sarei molto contento. E come possiamo non esaudire il desiderio di Roberto? E certo, abbiamo cercato la professoressa Margherita Hack. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Che cosa ci dice Margherita su Titano? Titano è un grosso satellite, più grosso della Luna. Come dimensione è più un piccolo pianeta che un satellite. È l'unico ad avere un'atmosfera molto ricca di molecole organiche, metano per esempio. La sonda Cassini, che è andata a visitare Saturno e dintorni, e ha sganciato un'altra sonda, la sonda Huygens, che è andata da sola, è scesa frenata da dei paracadute nell'orbita di Titano, ci ha mostrato il panorama di Titano, panorama che secondo gli scienziati dell'ESA, dell'Agenzia Spaziale Europea, somigliava al paesaggio di una campagna inglese dopo la pioggia. Ah. Infatti il terreno era bagnato e c'erano dei fiumi in cui scorreva un liquido, però alla temperatura di Titano, che sono circa meno 200 gradi centigradi, non poteva essere acqua. Quindi doveva essere metano liquido. E quindi c'è anche la domanda, siccome è ricchissimo di molecole organiche, è possibile su Titano ci siano delle forme di vita? È possibile che forme di vita elementari possano nascere in un liquido diverso dall'acqua? È possibile? A cui forse un giorno avremo una risposta. Va bene, grazie, sono sicura che il nostro ascoltatore Roberto sarà stato soddisfattissimo. La ringraziamo molto. Grazie, prego. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. C'è una nave in mezzo al mare e sulla nave c'è Monica Pepe. Buonasera Pepe. Buonasera. Geologa, fa parte dell'equipaggio di ricerca di questa nave che è partita da poche ore, è partita giovedì. E si chiama la nave? Urania. Urania, nave del Consiglio Nazionale delle Ricerche che sta risalendo. Cosa farete voi? Quale mare? Faremo il mare Adriatico fino a raggiungere Venezia. Oh, di questa nave, anzi con questa nave, noi entreremo in contatto nella prossima puntata per vedere che tipo di dati avete raccolto. Di una ricerca abbastanza singolare, perché voi andate per mare ma guardate in su, verso l'alto, verso i satelliti. Sì, diciamo che noi ci prepariamo ad una missione satellitare dell'Agenzia Spaziale Italiana e quindi facciamo delle osservazioni sul mare che però servono per capire quello che ci potrà dire questo satellite quando verrà lanciato. Satellite molto nuovo, no? Perché è in grado di avere una capacità di analisi che non ha precedenti. Esatto, sono satelliti di nuova generazione, si dicono iperspettrali, e che quindi misurano la radiazione elettromagnetica in maniera molto dettagliata. E quindi attraverso questo satellite si riusciranno ad avere dati che invece di solito bisogna recuperare andando per mare, prendendo i campioni d'acqua. Una esatto. Cosa così? Esatto. Esatto. Va bene, allora in quanti siete sulla nave? Siamo 18 ricercatori e 18 membri dell'equipaggio. Beh, quindi una nave abbastanza grossa, insomma. Sì, siamo al completo. Siete al completo. Va bene, allora l'appuntamento con voi è in fondo fra pochi giorni e lì invece ci spiegherete nel dettaglio bene cos'è questo progetto strano, curioso, molto interessante di guardare dal cielo il mare e poi anche alcune osservazioni che avete fatto. Grazie e buona navigazione. Grazie. Arrivederci. Dall'eternità a qui è il titolo di un libro volutamente rovesciato rispetto a quello che da qui all'eternità, insomma. Credo che perlomeno il film sia noto a tantissimi. Per parlare di questo libro ho Edoardo Boncinelli qui con noi stasera. Buonasera Boncinelli. Buonasera. Allora, biologo, ma ormai sei un grande commentatore di cose di scienza. Dall'eternità a qui è un libro di Sean Carroll, edito da Adelphi. Dicevo prima rovesciando perché il tema centrale, no, di questo libro è che mentre noi pensiamo a questa eternità nella quale si distende totalmente il tempo, invece forse potremmo dire che c'è soltanto il presente, insomma, e addirittura in questo libro non facile, però abbastanza fascinoso, non so qual è la tua opinione, si arriva a dire che probabilmente questo tempo non esiste, ma allo stesso tempo la contraddizione è particolarmente acuta, per esempio per un biologo come te, no? Abbiamo una situazione un po' paradossale, Boncinelli, cioè da una parte ci sono degli scienziati che con metodologie scientifiche possono arrivare a dire che il tempo non esiste e dall'altra un biologo e quindi un evoluzionista come te, beh, insomma, questa cosa è proprio inaccettabile. Ma il tempo è un problemino, è sempre stato un problema ed è tuttora un problema. In realtà ci sono 5 o 6 visioni del tempo, di cui almeno 3 sono fondamentali. C'è quella classica che conosciamo tutti, che il tempo scorre, e il problema in questo caso è perché va in una sola direzione e non in tutte e due le direzioni. Poi c'è il tempo della relatività, che appunto praticamente sembra congelato, sembra fermo, sembra che esista solo un eterno presente. E poi c'è il tempo della meccanica quantistica, il quale invece è innovativo, inventivo, perché ogni volta che succede qualcosa non si sapeva prima come sarebbe accaduto. Esatto. Quindi il quadro è un po' complicatino, diciamo. C'è una bella variabilità, però per alcune scienze, no? Ritorno un po' a quello che stavo dicendo prima nella domanda, per alcune scienze è inammissibile che non ci sia, prendiamo appunto l'evoluzionismo, non ci sia proprio uno scorrere del tempo come lo intendiamo. Ma diciamo che per tutte le scienze sperimentali il tempo è quello che è, con il problema di perché va in una sola direzione. Le altre sono, come dire, speculazioni teoriche di base sostanzialmente matematica, quindi io le metterei un pochino da parentesi, anche perché l'interpretazione concettuale di quei discorsi è tutto fuorché facile. Sul piano sperimentale non c'è dubbio che il tempo passa, che gli animali invecchiano, gli esseri umani invecchiano, le stagioni si succedono e se scaviamo per terra troviamo dei fossili di animali che ora non ci sono e viceversa. Quindi su questo, sul piano della realtà, non c'è dubbio che il tempo c'è e passa. Ed è così da prendere. Ma secondo te potrebbe essere possibile, come è stato per altre scoperte poi che si sono fatte, ma per altre fenomenologie nel passato, no? Delle cose che per noi oggi sono assolutamente ovvie, invece per tantissimo tempo non si vedevano, non si riusciva a percepirne nemmeno teoricamente l'esistenza, no? Non so, penso a tutto il mondo microscopico, certo non c'erano gli strumenti, però non passava minimamente per la testa a uomini fino al 700 che ci potesse essere alla base delle malattie un organismo microscopico, e poi invece si scopre. Potrebbe essere che noi ad un certo momento si scoprisse delle cose stranissime sul tempo. Ma questo, come dire, mai dire mai nella mai dire mai. Quindi bisogna sempre tenere la porta aperta. In realtà i meandri del tempo delle particelle subatomiche sono un problemino anche loro, non da poco. Il nostro Carlo Rovelli c'ha tutta una teoria sulla struttura dello spazio-tempo. Per quanto riguarda lo spazio, il tempo bloccato della relatività, io personalmente inclinerei a considerarla un capriccio matematico e niente di più. Un capriccio matematico, anche se la matematica è poi lo strumento che voi scienziate, adesso è entrata anche fortemente nella biologia. È uno strumento ed è sempre più importante, però la matematica non ha contatto con la realtà. Quando ce l'ha, ce l'ha, ma non è obbligatorio che ce l'abbia. Quindi la matematica è lo strumento della scienza sperimentale, lo strumento fondamentale, ma che non può sostituire la scienza sperimentale. Perché può creare mondi che non esistono e può assolutamente rappresentare invece cose che esistono. È disponibile a tutto, insomma, la matematica. Pensiamo alla teoria degli universi paralleli, certo, che è interessantissima, ma insomma, chi mai di noi si preoccuperebbe se accanto al nostro c'è un universo parallelo, insomma, il che però non vuol dire che magari un domani qualcosa non venga fuori, possa succedere dal cilindro. Grazie Edoardo Boncinelli, ripeto il titolo: Dall'eternità qui, edito da Adelphi, scritto da Sean Carroll, che è un fisico che insegna al California Institute of Technology. È un libro piuttosto tosto, insomma, piuttosto denso, prendetevi del tempo per leggerlo, e però è, insomma, è fascinoso. Grazie ancora Boncinelli. Grazie. Ogni tanto qui a Möbius abbiamo l'abitudine di smitizzare delle cose. In tempi difficili come questi, in cui il futuro non è certo, bisognerebbe stare attenti. Però... Sì, poi mi viene anche da dire, in una situazione come questa, in cui purtroppo questo studio fatto a Uppsala è veramente di attualità. Sì. Allora, io intanto ti dico un motto. Donne e bambini per primi. Ecco. Cosa ti viene in mente? Mi viene in mente l'affondamento del Titanic, ecco, che c'è questo lungo elenco pubblicato dal Boston Globe il giorno dopo, in cui si legge chiaramente il signore e la signora, il signore e la signora. Quindi diciamo che non era stato proprio rispettato alla lettera. No, quelli della prima classe sono andati via, le famiglie, anche credo con la tata, le babysitter, ecco, il cameriere. A me ricorda una vicenda più vicina, diciamo un naufragio un pochino più recente, ma lasciamo da parte le polemiche, insomma, e parliamo di uno studio vero, scientifico, che è stato svolto da dei ricercatori dell'Università di Uppsala, e per parlarne abbiamo invitato un collega che ha recentemente postato su un bel blog, l'inchiesta.it, proprio di questa vicenda. Intanto, ciao Marco. Ciao, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Marco Bosco, lo giornalista di scienza, che è andato a prendere questa indagine upsaliana. E che cosa è venuto fuori? Ah, è venuto fuori che, insomma, quando ci si tratta di affondamenti di navi da crociera, non è che proprio questo motto che noi abbiamo in testa di donne e bambine prima venga davvero rispettato, anzi, i ricercatori dell'Università di Uppsala si sono domandati se fosse davvero rispettato, e in realtà è venuto fuori che andando ad analizzare 18 disastri nell'arco di 150 anni di storia di disastri marini, le donne hanno una percentuale di sopravvivenza piuttosto bassa. E anche i bambini, perché io ho visto il grafico, anche i bambini non se la passano bene. Bambini, mancano alcuni dati, perché in realtà negli affondamenti più antichi non venivano spesso registrati del tutto, quindi non è un dato attendibile, mentre quello sulle donne è più attendibile. Ecco, la ricerca analizza avvenimenti appunto di questa tragicità dal 1852 al 2011, quindi diciamo un bel ventaglio. E allora, se non sono le donne, non sono i bambini a salvarsi, chi sono i sopravvissuti? I membri dell'equipaggio. Ecco. Hanno una percentuale di sopravvissuti che è doppia rispetto a quella delle donne, e comunque è più alta anche di quella dei passeggeri uomini. Però il capitano invece affonda con la nave sempre. No, non sempre. Nei 18 casi che sono stati analizzati, in una buona metà il capitano è sopravvissuto, quindi insomma non è vero che il capitano rimane sempre a bordo della nave. Eccola lì. Questa vicenda di schettinare la memoria. Anzi, è il primo che magari scende. No. Chi lo sa, non sappiamo di quegli altri, soprattutto per quelli più storici come Cadi, non sappiamo se il capitano ha abbandonato e quando ha abbandonato, perché sappiamo solo se è sopravvissuto o meno, però una buona metà dei casi sopravvive, quindi tutto sommato schettino rientra nella statistica, diciamo. Ecco. Ma tanto per dare un ordine, cioè il 60% dei sopravvissuti sono dell'equipaggio, quindi cioè non ci sono moltissimi dubbi, ecco, sul fatto che comunque loro cerchino di salvare la pelle. No, loro cercano di salvare la pelle pelle, e addirittura gli studiosi di Uppsala che hanno fatto questa ricerca hanno anche testato alcune ipotesi, che sia magari perché 90 volte su 100 sono di sesso maschile, quindi magari sono più forti, più resistenti, sanno nuotare più di quanto non sanno nuotare i passeggeri, hanno una conoscenza anche tecnica della nave, insomma hanno dei vantaggi oggettivi nei confronti degli altri passeggeri. Certo è che comunque il codice morale, il codice cavalleresco vorrebbe che i marinai in caso di necessità cercano di aiutare chi è in difficoltà e non di salvare la pellaccia. Quindi addio al motto prima donne e bambini, viva il motto si salvi chi può, insomma, chi riesce si salva. No, ma dai, cerchiamo di essere positivi, sì. È vero che probabilmente uno che fa il marinaio è più preparato alla sciagura, sa riconoscere molto meglio le tante cose che in una situazione di panico è meglio non fare, insomma, su una nave che affonda. Credo che la situazione diventi molto pesante e quindi venga fuori questo effetto si salvi chi può, che vediamo in tutte le situazioni di panico, quando, ed è questo è stato il caso del Titanic, la nave va giù in poco tempo, rapidamente, allora lì, cari miei, e lì è proprio pelle, chi salvi è la pelle per tutti, Certo, però a me però viene da pensare che se tu sei membro di un equipaggio dovresti anche essere preparato a gestire questa situazione di panico, sicuramente dovresti essere più preparato di quanto non sia il normale passeggero, quindi questo è un punto che comunque, indipendentemente dalle statistiche, secondo me rimane fondamentale per quanto riguarda la sicurezza delle navi da crociera e delle navi che trasportano passeggeri in generale. E poi forse questa preparazione dovresti averla sul posto, non da mare, diciamo, non dalla scialuppa, però insomma queste sono polemiche che lasciano il tempo che trovano, no? Non giriamo il coltello nella piaga. Va bene, grazie Marco, ricordiamo il link del tuo blog. Allora, www.linchiesta.it, e lì trovate Fatti di Scienza, che è il blog che io curo assieme alla mia collega Elisabetta Tola, in cui parliamo di scienza da un punto di vista un pochino più simpatico che non quello del tutto giornalistico. Ecco. Bravi ragazzi. Ciao Marco, grazie. Ciao Marco. Ciao, arrivederci. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Lo zainetto di libri da 60 kg portato a spalla da piccoli umani che ne pesano 40 è forse alla fine della sua presenza nella vita scolastica di milioni e milioni di bambine e bambine? Con questa enfasi foscogliana vi introduco Chiara Albicocco. Finalmente i libri di testo per le scuole sbarcano sui tablet. Che siano iPad o Android, chi possiede questi strumenti tecnologici nuovi, e ormai insomma sono in tanti, potrà utilizzare i libri multimediali Zanichelli. Per ora sono i primi in Italia a sfruttare questi nuovi mezzi di comunicazione e noi ne parliamo insieme al direttore editoriale Giuseppe Ferrari. Buonasera. Buonasera. Insomma, dal prossimo anno scolastico gli alunni delle scuole avranno questi nuovi strumenti, dicevamo multimediali, per studiare ma anche per fare i compiti. Ci racconti di che si tratta? Sì, sono libri arricchiti che si possono leggere su tablet, quindi su iPad e su Android, che contengono il testo più video, animazioni e la possibilità di fare esercizi interattivi. Inoltre esiste anche una funzione nuova che si chiama quaderno degli appunti, mediante la quale uno studente può ritagliare dei pezzi di libro, commentarli, fare ricerche e poi mandarli eventualmente via email al professore. Ecco, mi piace molto ritagliare, questo in questo caso si può dire, perché in maniera figurata, insomma, può tagliare e incollare. Col libro di carta non si poteva fare. No. È complicato. Ecco, e la cosa interessante è che lo studente può anche eseguire i compiti, mandarli direttamente ad esempio alla professoressa, e voi già in questo tipo di applicazioni, perché ormai si chiamano così, quanti libri avete in libreria? Più o meno. Allora, questo è un esperimento che facciamo, per ora siamo partiti con 14 libri, sia delle medie e scuole superiori. È un esperimento che credo poi che continueremo, e immagino che tanti libri nella prossima campagna scolastica saranno fatti in questo modo. Ma abbiamo libri di scientifici, abbiamo anche libri umanistici, di storia, sia per le medie che per le superiori. Sono libri che consentono di utilizzare le diverse intelligenze che ciascuno di noi ha, cioè possiamo dire che tutti siamo diversamente intelligenti, c'è chi ama imparare ascoltando, c'è chi ama imparare guardando un video, chi leggendo, chi provando a fare delle cose. Ecco, questi libri su tablet contengono, danno la possibilità di mettere in atto questi diversi stili di apprendimento. Sono anche abbastanza intelligenti queste applicazioni, perché permettono anche di valutare diciamo anche la preparazione dello studente prima che lo faccia l'insegnante. Sì, diciamo lì ci sono sarà un link ad un nostro sistema di test che è su internet, attraverso il cui un ragazzo può allenarsi a fare dei test, quindi vede cosa sa e cosa non sa, un feedback, hai sbagliato perché, e poi potrà anche valutarsi e mandare la prova all'insegnante, il quale, creando una classe virtuale, avrà un registro elettronico e che gli consente di avere il polso della classe, di capire cosa i ragazzi sanno e non sanno e di intervenire nei loro punti deboli. Ecco, questo è un po' il compito anche di quello che voi chiamate Math Tutor, che è un personal trainer, vogliamo dire così, online, digitale, per studiare in questo caso la matematica, perché Math Tutor non lascia dubbi. Sì, esatto, ed è un sito attraverso il quale uno studente prepara la prova scritta di matematica per la quinta liceo scientifico. Contiene tanti esercizi, tanti video, ci sono 4 ore di video, tutti a pezzettini di 3-4 minuti e quasi 200 animazioni interattive. In sostanza uno studente cosa fa? Si allena facendo esercizi, se sbaglia sa il perché ha sbagliato e trova anche la teoria che sta sotto quell'esercizio cliccando un pulsante in cui viene fuori il video che gli spiega che cosa doveva sapere per risolvere questo esercizio, oppure legge il testo della teoria oppure trova un esempio svolto. Dopo aver fatto questo si mette alla prova, viene valutato da un sistema che crea che eroga dei test adattivi, cioè su misura della sua preparazione, e quindi in qualche modo ha una valutazione sul proprio apprendimento. Un motore adattivo, cioè un software adattivo, significa questo: fa un po' quello che fa un professore quando interroga. Ecco. Il professore prova a fare una domanda, se il ragazzo risponde bene ne fa uno di livello un po' più alto, uno un po' più difficile, oppure se risponde male abbasserà un po' il livello, insomma, per dargli la sufficienza. A un certo punto poi trova la valutazione, trova il livello giusto. Quindi questo software adattivo di Math Tutor fa sì che lo studente abbia delle domande che sono al suo livello o perlomeno che costituiscono una sfida accettabile, vale a dire che non siano né troppo difficili tali da essere, come dire, da abbandonare la prova, né troppo facili da essere banali, ma da tenerlo sempre in tensione per riuscire a imparare. Dal punto di vista del professore, il professore ha di nuovo, creando la classe virtuale e attraverso il registro elettronico, ha sotto controllo la classe, quindi si può immaginare che un professore che dia un compito in classe per venerdì e dica: per mercoledì fate i test sulle derivate, i ragazzi lo fanno, lui dà un'occhiata al registro e vede che cosa sanno e cosa non sanno i ragazzi, vede la media della classe, la confronta con la media nazionale, cioè con la media della classe Italia, cioè di tutti i ragazzi che hanno fatto questi test, quindi ha un, come dire, un giudizio anche sulla sua classe e poi sa quali sono le cose su cui i ragazzi sono più deboli, quindi giovedì mattina le rispiega. Non avete risolto il problema di quando si copia a casa, ma questo vabbè è un problema che gli studenti sono tutti diversi, ecco, dovranno essere abili. No, tornando invece ai libri multimediali, noi prima abbiamo detto che sono i primi in Italia perché sono un po' diversi dagli ebook, che sono proprio dei PDF, insomma delle versioni scaricabili in digitale, però identiche al libro di testo. Abbiamo detto quindi che sono correlati da tutti questi video, da tutti questi tutorial che si possono utilizzare. Sono attraenti quindi dal punto di vista dello studente, ma anche dal punto di vista del genitore, perché coi costi siamo messi bene. Sì, grosso modo, guardi, c'è un risparmio del 30%. Le faccio due esempi: un libro per le superiori che costa 30 euro direbbe a costare nella versione scaricabile multimediale, cioè su tablet, poco più di 20, e invece un libro delle medie che su carta costa 20, se uno lo vuole nel formato digitale costa meno di 15 euro. Faccio conto che noi possiamo vendere questi libri su tablet, questi scaricabili multimediali su tablet separatamente, oppure li vendiamo anche acquistando il libro di carta, cioè se uno acquista il libro di carta senza costi aggiuntivi ha anche la versione scaricabile su tablet multimediale. Ecco, questo è un po' il periodo in cui gli insegnanti scelgono i libri di testo. Cosa capite? Insomma, piacciono? Gli insegnanti sono disposti anche a cambiare un po', ad azzardare un po' sulla tecnologia, o incontrate anche delle resistenze? Guardi, noi abbiamo fatto diversi corsi di formazione a cui sono a cui hanno partecipato diverse migliaia di insegnanti in Italia. Quindi abbiamo capito qual è il problema. Cioè, da una parte noi vediamo che c'è tanta curiosità, tanto interesse da parte degli insegnanti, perché capiscono che in questi nuovi strumenti per l'educazione digitale ci sono grandi opportunità per insegnare meglio e per apprendere in modo più efficace. Dall'altra parte c'è un'obiettiva difficoltà che consiste nel cambiare un paradigma di insegnamento. Cioè, ciascun insegnante è parte, guardando quello che hanno fatto gli insegnanti con cui è andato a scuola. Dopodiché fa tutte le modifiche, perché i ragazzi cambiano, il mondo cambia, però il paradigma è lavagna e libro e lezione del professore. Adesso il professore in prospettiva si trasformerà più in un regista che ha a disposizione diverse risorse e che deve gestire dando un insegnamento più personalizzato, cioè più adatto alle diverse intelligenze di ciascuno studente. Questa è la prospettiva ed è molto bella ed è allettante. Il grosso problema è come arrivarci, perché, ripeto, questo implica un cambio di paradigma, un cambio di mentalità, sì. E nessuno ha la soluzione perfetta. Quindi è bene, secondo me, procedere per tentativi ed errori, e noi ci teniamo a guardare a questa prospettiva, ma nello stesso tempo ad avere i piedi per terra e a suggerire ai professori che cosa possono fare in classe domattina alle 11. Certo. E se fossero gli studenti a scegliere, mi permetto di dire che credo che sceglierebbero sicuramente la versione digitale. Va bene, grazie Ferrari, buon lavoro. Grazie. Usare meno carta significa anche però abbattere meno alberi, e proprio di questo ora vi voglio parlare con Alberto. Insomma, saltiamo di libro in frasca. Ecco, appunto, più che di frasche, in realtà parliamo di tronchi millenari, e lo facciamo con Mauro Bernabei. Intanto buonasera Bernabei. Buonasera. Lei è ricercatore dell'Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree del CNR, detto IVALSA, appunto come acronimo. Voi agite in Trentino, intorno al Passo del Tonale o giù di lì, e che cosa avete trovato ultimamente? Ma abbiamo trovato una discreta quantità di tronchi di origine subfossile, ovvero che sono anche molto antichi, inquadrati di solito cronologicamente in un periodo che va da 1000 anni fa fino a 9000 anni indietro. Caspita, e sono praticamente abeti quelli che avete trovato? Abeti rossi, mi sembra. Diciamo il 70% del materiale è abete rosso, circa il 20% è larice, il 10% è pinocembro. È la prima volta che si fanno dei ritrovamenti così antichi? Probabilmente no. Altro materiale probabilmente antico era già stato trovato. La cosa interessante in questo caso è che al ritrovamento del singolo campione, incredibilmente ben conservato tra l'altro, ha fatto seguito poi una ricerca per vedere se ce n'erano altri di campioni, e la cosa sorprendente è che abbiamo scoperto che le torbiere del Trentino sono praticamente pieni di legno, e che questo legno sorprendentemente è anche molto antico. È anche ben conservato, perché le torbiere sono un habitat, come dire, ideale per questi tronchi millenari. Assolutamente. L'ambiente anossico, privo d'ossigeno, e la particolare acidità dell'ambiente conserva il legno in maniera veramente molto, in condizioni molto buone. Voi studiate gli anelli di accrescimento degli alberi, tutti sappiamo che cosa sono, la disciplina precisamente si chiama dendrocronologia, e che tipo di informazioni ci dà? La disciplina viene fatta risalire a Leonardo da Vinci, che per primo intuì le relazioni tra gli anelli del legno e l'età della pianta e l'ambiente che circondava le piante. Le informazioni che può dare questa scienza sono numerosissime e variano in campi anche abbastanza distanti uno dall'altro, si va dalla ricostruzione climatica alla dendrogeomorfologia, allo studio del movimento dei ghiacciai, praticamente lo studio di frane, il movimento di versanti, studi di questo tipo. Ecco, possiamo dire che gli alberi sono proprio un prezioso archivio naturale di tutte queste informazioni, che possono essere appunto le variazioni climatiche, di temperature, eccetera, eccetera. Assolutamente. Il problema che abbiamo con gli anelli del legno non è tanto che non abbiano informazioni, il problema è che ce ne sono troppe, perché gli alberi incredibilmente registrano qualsiasi cosa avviene intorno a loro. Esistono studi del passato in cui sono stati ricostruiti gli interventi sui viali cittadini per mettere i cavi della luce o le condotte dell'acqua, oppure esistono studi in Francia dove hanno ricostruito la bontà e la qualità delle annate dei vini proprio attraverso lo studio degli anelli del legno. Per cui, diciamo, le informazioni sono tantissime. Il vero problema nello studio degli anelli del legno è quello di arrivare a saper cogliere tutte, a discriminare, diciamo, tutte le varie informazioni. Quindi in qualche modo voi state costruendo un archivio di tutti questi dati, costruite delle serie anno per anno per capire che cosa è successo all'ambiente, che cosa è successo in generale. Esattamente, insomma, per classificare esattamente tutte queste... questo quello che facciamo. Diciamo che purtroppo in Italia fino ad oggi siamo abbastanza carenti di lunghe cronologie, mentre altrove in Germania c'è una famosissima lunga cronologia di quercia che si estende per 15.000 anni indietro a partire da oggi. Per le conifere del centro Europa ugualmente si va indietro per circa 9.000 anni. Ma di anno in anno addirittura? Di anno in anno. Ah. Caspita, e allora noi stiamo facendo il nostro pezzettino. Noi stiamo facendo il nostro pezzettino e ci stiamo mettendo al passo, diciamo, col resto del mondo con queste lunghe cronologie. E la cosa molto interessante è che ci consentono, mentre fino ad oggi avevamo dei problemi per datare del materiale, perché le nostre cronologie di riferimento, cosiddette master, su cui poi andiamo a incardinare il materiale che troviamo, diciamo, Si estendevano pochissimo indietro nel tempo. Per pochissimo intendo per un periodo, per l'abete rosso eravamo fino a qualche anno fa con cronologie lunghe 600 anni, già oggi con questa ricerca siamo intorno ai 2000 anni per l'abete rosso, quindi in questa zona adesso, da adesso in poi ogni manufatto che troveremo fatto di abete rosso potremmo datarlo utilizzando queste master che stiamo costruendo. Perché quando parla di datare il legno intende appunto i manufatti lignei, perché le piante insomma sono datate dagli anelli di accrescimento. Esattamente, esattamente. Quindi insomma prima abbiamo parlato di libri, adesso di alberi, e questi alberi sono dei libri aperti sul nostro passato. È un'immagine che risponde perfettamente alla realtà. Sì, ecco, lo scusi perché lui la battuta la deve sempre mettere. Mi pagano per insomma. Questo. Ma è veramente così, è veramente così. E tutte le volte che mi capita di studiare gli anelli del legno rimango sorpreso per come veramente dentro è scritto di tutto. Va bene, la ringraziamo molto Bernabé, allora buon lavoro e aspettiamo buone nuove. Grazie, buone nuove. Posso aggiungere una cosa, è che questo progetto è stato fatto ed è fatto in collaborazione con il Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento e che sono assolutamente parte attiva e senza l'aiuto del quale non sarebbe stato assolutamente possibile realizzarlo. Benissimo, allora grazie Bernabé, buona serata. Buona serata. In chiusura di questa puntata, la soluzione del quiz, allora ve lo ricordate, il pappagallo regalato ad Einstein per il suo 75esimo compleanno. Che cosa successe a questo pappagallo? Allora, il gatto di Einstein non se lo mangiò, né il fatto che Einstein odiava i pappagalli e quindi non lo regalò a nessun altro. Invece sì, Albert Einstein cercò di insegnare al suo pappagallo barzellette spinte, però da quanto si sa il pappagallo non ne imparò assolutamente nessuno. E questa quindi era la soluzione del quiz. Questa settimana non perdete tempo con il vostro pappagallo, non insegnargli parolacce o battute pesanti, perché sono gente per bene, quindi non le imparano. State tranquilli e tranquille e noi ci sentiamo qui fra 7 giorni.